Oliver Twist. Il mondo è un posto strano, tormentato dal male e protetto dal bene. La nostra storia ce li mostrerà entrambi. Questa storia è la storia di Oliver Twist, che in una notte piovosa e tempestosa venne portato in un orfanotrofio nella città di Malfoy. Ho trovato questo bambino. Lo prenda. D'accordo. Oliver Twist visse i primi 10 anni della sua vita nell'orfanotrofio. Questi furono 10 anni senza una famiglia, nessuno che tenesse veramente a lui e quasi niente da mangiare. Questo è troppo poco. Ero così affamato ieri notte che non riuscivo a dormire. Dovremmo chiedere di più. Chi lo farà? Il cuoco ci picchierà se lo facciamo. Ho un piano. Chi prende il mezzo stecchino chiederà di più. Ok. Ok. Scusi, signore, ne vorrei ancora. Cosa hai appena detto? Signore, ne vorrei ancora. Ti insegno io a prenderne di più. Lascialo andare. Ti ribelli contro di me? La pagherai per questo twist, la pagherai. Oliver non solo fu punito per aver chiesto più zuppa, ma fu anche cacciato dall'orfanotrofio e mandato come apprendista da un falegname. Ecco, Oliver, questo è il posto dove lavorerai. No, a questo ragazzo è una tua responsabilità. Dormirà con te nella tua stanza. Insegnagli la nostra arte. Sì, signore. Allora, cosa abbiamo qui? Una piccola creatura malaticcia? A cosa mi potresti servire? Condividere la mia stanza, dai. Non succederà mai, capito? Allora lo dirò al signor Sowerberry. Davvero? Oh, santo cielo! Signor Sowerberry! Signor Sowerberry! Ho visto quello nuovo spingere Noah! Son caduto sul legno e la lama avrebbe potuto uccidermi, signore! Ma, signore! Basta, Oliver! Se sentirò ancora una volta che ti sei comportato in questo modo, mi prenderò personalmente cura di te! Ci siamo capiti? Farei meglio ad abituarti a questo. L'orfanotrofio ti ha mandato qui per starci 7 lunghi anni. Oliver raccolse le sue cose e corse via nella notte. Camminò per settimane. Dirigendosi verso la città di Londra, lontano dall'orfanotrofio e lontano da Mr. Sowerberry e dal terribile Noah. Dolci croissant mielosi per soli 5 penny l'uno, solo 5 pezzi l'uno. Ragazzo, stai lontano da qui! Avanti, mangialo! Questo lo pago io! Grazie! Non ti ho mai visto qui prima! Sei nuovo a Londra? Sì! Sono Jack! Mi chiamano l'astuto furfante qui intorno! Come ti chiami? Mi chiamo Oliver! Oliver Twist! Scappato? Tranquillo, Oliver. Conosco un uomo che ti prenderà con sé gratis. Vieni con me. Grazie. L'astuto furfante lo portò da un uomo di nome Fagin, che viveva in una parte isolata di Londra. L'astuto furfante e molti altri bambini stavano con lui. Aprite! Sono io! E quello chi è? Questo è Oliver Twist! È uno a posto! È come me! Oliver Twist! Sembri un ragazzo affamato! Charlie, portagli del cibo! Lascia che li metta via. Facciamo portafogli da queste parti. Siediti. Ah, c'è il tuo cibo. Forse per la prima volta nella sua vita, Oliver ebbe un pasto abbondante e presto si addormentò. Domani uscirà con tutti voi. Così presto? Bene. Prima impara e meglio è. Altrimenti non mi serve niente da queste parti. Assicurati che nulla vada storto, va bene? Il mattino seguente, Fagin mandò Oliver con i ragazzi per affari. Oliver non aveva idea di cosa fossero questi affari. Pensava semplicemente di dover fare dei portafogli. Vai e ricorda, devi lavorare per stare qui, ok? Sì, signore. Buongiorno, Mr. Brown. Eh? Buondì, signor Collins. Adesso guarda. Al ladro, al ladro! Oliver fu scioccato nel vedere che il vero affare di Fagin e dei suoi ragazzi non era quello di creare portafogli, ma piuttosto di rubarli. L'astuto furfante e Charlie scapparono via. La folla pensò che Oliver fosse il ladro e cominciarono ad inseguirlo. Presto un poliziotto lo raggiunse e arrestò Oliver. Vieni qui tu, ti condurrò dal magistrato e ti darò 7 anni di prigione. Ufficiale, 7 anni? È un po' troppo, non è vero? No, il magistrato dovrà usarlo come esempio. Gli sta bene! Oliver venne portato in tribunale e presentato davanti al magistrato. Il signor Brownlow implorò pietà per il bambino, ma il magistrato era severo e convinto. Stava per mandare Oliver in prigione per 7 anni quando arrivò il signor Collins. Ah, signore, io non ho rubato nulla! Ufficiale, l'hai preso sul posto? Signor sì, l'intera folla lo stava inseguendo quando l'ho catturato. Mio signore, 7 anni sono così tanti. Non interferisca con le faccende della legge, signore. Io ordino che il ragazzo sia mandato... Ma, signore! Che cos'è? Come osi interferire con le questioni del tribunale? Chiedo scusa, signore, ma questo ragazzo è innocente. Il vero ladro è fuggito. L'ho visto con i miei occhi. Agente, lei l'ha visto davvero rubare? No, signore. Pah, ottimo. Ordino che il ragazzo sia rilasciato immediatamente. Seguili. Apri, ho degli affari per te. Sì? Quel ragazzo, Oliver, ho bisogno che tu lo trasformi in un ladro. Beh, è stato già catturato per il furto. No, è stato rilasciato ed ora è con il signor Brownlow. Questo è un sollievo, il povero ragazzo. Devi riportarlo indietro e trasformarlo in un ladro e dirmi tutto ciò che sai di lui. Da dove viene? Chi erano i suoi genitori? C'era una medaglia su questa persona quando è stato portato qui? Devi dirmi tutto o ti consegnerò io stesso alla polizia. Non sappiamo nulla di Oliver, tranne che non è di Londra. Viene da un orfanotrofio a Mudford. Dopo quel calvario, Oliver era molto turbato. E gli ci vollero alcuni giorni per riprendersi. Era ben curato nella casa del signor Brownlow. Signor Brownlow, starà bene. Questo ragazzo mi incuriosisce. Quando sarà più forte, avrò bisogno di sapere da dove viene. Chi sono i suoi genitori? Perché sei così interessato al passato del ragazzo? Viene da un orfanotrofio. Lei è una mia amica. Oh, la faccia di Oliver è molto simile alla sua. Potrebbe essere sua madre. Precisamente, dottore. Era un'amica di famiglia. Non sento parlare di lei da oltre 10 anni. Oliver stava diventando più forte e Fagin aveva chiesto all'assuto furfante di sorvegliare la residenza del signor Brownlow in modo che potessero rapire Oliver non appena fosse uscito di casa. E un giorno il signor Brownlow gli diede dei soldi e chiese a Oliver di restituire alcuni libri alla libreria. Lui è nostro figlio. Proprio molto arrabbiato in questo momento. Lo porteremo a casa. Dai, figlio. Ti prenderemo le scarpe nuove che volevi. Ora torna a casa per cena. Fagin portò Oliver a casa sua e pianificò una rapina quella notte per trasformare Oliver in un ladro, proprio come aveva promesso a Monks. Lasciala andare! No, Nancy. Farà parte della rapina. Quella notte Fagin portò Oliver per farlo entrare in una casa grande e ricca. Entra dalla finestra e apri la porta dall'interno. Se non lo fai, non hai idea di quanto duramente ti punirò. Ora vai! Chi è là? Chi è in casa? Corri! Questa casa apparteneva alla signora Rose Mayfield e fu piena di compassione quando vide la faccia pietosa di Oliver. Si prese cura di Oliver. Un giorno, uno strano visitatore andò a trovarla. Riguarda Oliver, incontriamoci a London Bridge stasera alle 12. Oliver, sai niente di tutto questo? No, signora, sembra che la donna fosse Nancy della banda di Fagin, ma so chi può aiutarci. Chi? Mr. Brownlow. Era molto gentile con me quando ero con lui. Oh, Mr. Brownlow è un amico di famiglia. Gli parlerò subito. Così la signora Rose parlò con il signor Brownlow e accettò di andare al ponte di Londra quella notte. Nancy li stava aspettando. Mr. Brownlow. Signora Nancy, è così? Sì. Ha qualcosa da dirci su Oliver Twist? Sì. C'è un uomo chiamato Mr. Monks che è determinato a trasformare Oliver in un ladro e voleva anche sapere dei genitori di Oliver ed era andato all'orfanotrofio di Mudford per scoprire di più su di lui. Stava cercando una specie di medaglione. Del perché non ne ho idea. Molto bene, signora Nancy. Grazie, farò dei controlli. Quindi il signor Brownlow chiamò il direttore dell'orfanotrofio e fece venire anche Mr. Monks nel suo ufficio. Quindi Oliver indossava un medaglione quando ti è stato dato da bambino? Sì, signore, ecco qui. Agnes, quindi avevo ragione. Oliver è il figlio della mia amica Agnes. Posso andare, signore? Hai tenuto un medaglione appartenente al ragazzo con te. L'hai rubato da lui. Non hai dato abbastanza cibo ai bambini dell'orfanotrofio ed hai buttato fuori Oliver solo perché ha chiesto più zuppa. Come osi? Mi spiace tanto, signore. Non ci si può fidare di uomini come te che rubano ai bambini. Non sei più il direttore di Mudford e ti manderò in prigione. Signore! Portatelo via. Perché volevi che Oliver diventasse un ladro? Perché lui è mio fratello minore. E mio padre disse che se qualcuno di noi avesse fatto qualcosa contro la legge, tutta la nostra ricchezza sarebbe stata data all'altro fratello. Quindi volevi che questo piccolo bambino diventasse un ladro in modo da poter avere i suoi soldi? Vergognati, Monks! In questo modo hai infranto la legge. Anche tu andrai in prigione e la tua ricchezza passerà ad Oliver. Portatelo via! Signora Rose, Oliver è il figlio di sua sorella Agnes. Oh, Oliver! Oliver, sei un ragazzo ricco e voglio darti anche una famiglia. Voglio adottarti come figlio mio, se non ti dispiace. Oh, mi piacerebbe così tanto. Però avrei una richiesta, signore. Che cosa, Oliver? Per favore, usiamo la mia ricchezza per aiutare i bambini dell'orfanotrofio e i ragazzi della banda di Fagin. Sono così orgoglioso di te, Oliver, e non ti preoccupare. Farò in modo che tutti i ragazzi vadano a scuola e imparino a diventare buoni e generosi proprio come te.